Container, l'approfondimento settimanale su autotrasporto e mobilità di Massimo De Donato. In piena emergenza coronavirus, il mondo dell'autotrasporto vive giornate piuttosto intense. Il trasporto delle merci, come evidenziato anche dalla Commissione europea, è infatti fra i servizi primari che devono continuare a essere garantiti, nonostante le limitazioni e le misure di contenimento imposte dalle frontiere dei vari paesi. Nel frattempo, in Italia è entrato in vigore il decreto con cui il governo ha varato importanti misure di sostegno per famiglie, sanità e settore produttivo nazionale. Il comparto delle merci, ritenuto fra le filiere più colpite, beneficerà di una serie di provvedimenti per tamponare i danni causati dall'emergenza sanitaria in atto. Si va dalla sospensione di versamenti, ritenute fiscali e contributi previdenziali, alla proroga della validità di patenti e revisioni dei mezzi, fino all'esonero di canoni e tasse legate all'attività nei porti. Salve a tutti da Massimo De Donato, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Container, l'approfondimento settimanale di Radio 24 dedicato al mondo dei trasporti e della logistica, un settore che ovviamente sta vivendo con grande attenzione e grande anche apprensione l'evoluzione del Covid-19, un settore assolutamente in prima linea, come hanno ribadito di recente anche i vertici istituzionali, ringraziando pubblicamente gli operatori del trasporto e della logistica per tutto quello che stanno facendo in queste settimane e in questi giorni per garantire gli approvvigionamenti in Italia. Un settore che aspettava con particolare ansia anche un provvedimento governativo che è stato poi il Cura Italia, all'interno del quale dovevano esserci dei provvedimenti specifici appunto per la filiera. Ne parliamo oggi in compagnia del nostro ospite che è Andrea Manfron, segretario generale di FAI Conf Trasporto. Buongiorno, grazie per essere qui con noi. Buongiorno. Allora, proprio questa settimana è arrivato il Cura Italia, il provvedimento atteso con le misure economiche a sostegno del Paese, lo conoscete credo ormai tutti. Ci sono degli aspetti specifici che riguardano il mondo del trasporto merci. Innanzitutto l'inclusione fra le varie filiere particolarmente colpite, inclusione tra l'altro che è arrivata proprio all'ultimo momento, Manfron. Ci sono sicuramente delle cose importanti, l'ultima appena citata relativa all'inserimento tra quelli che sono i benefici dal punto di vista contributivo per gli sgravi dal punto di vista appunto contributivo per quanto riguarda il trasporto merci, sono sicuramente un fatto molto importante perché rientrano e garantiscono un po' di respiro alle imprese dell'autotrasporto. Imprese che stanno facendo veramente un'attività quasi eroica in questo momento, con tutte le complicazioni che ci sono sul campo, il trasporto e la logistica in generale stanno garantendo il massimo del servizio rispetto a tutti quelli che sono adempimenti. Senza la logistica evidentemente nulla sta su. Per quanto riguarda il decreto, ci sono, come detto, cose importanti anche dal punto di vista degli ammortizzatori sociali, la liquidità delle imprese. È molto importante, riteniamo, le risorse che sono state stanziate, credo quasi 1,2 miliardi per quanto riguarda il Fondo Centrale di Garanzia per le piccole e medie imprese, perché si garantisce un più agevole accesso alle garanzie dello Stato e quindi di fatto si può garantire una liquidità maggiore, una capacità, un accesso ai finanziamenti dal punto di vista delle imprese molto più semplice. Ecco, poi ci sono dei provvedimenti specifici che riguardano in qualche modo il mondo del trasporto. Penso ad esempio a quelli legati alla revisione dei veicoli. Le cose positive, quindi, che ci sono all'interno del decreto riguardano revisioni e patenti, neanche patenti, un altro provvedimento importante. Quindi di fatto vengono posticipati, o meglio, mettiamolo al contrario, vengono autorizzate alla circolazione, se non ricordo male, fino al 31 di ottobre, tutti i veicoli che sono ancora da sottoporre a revisione fino al 31, e da qui fino al 31 di luglio. Questo riguarda anche i collaudi dei veicoli. E per le patenti è stato fatto un analogo provvedimento che garantisce proroga le scadenze delle patenti fino al 31 di agosto, anche qui vado a memoria, Parliamo quindi delle patenti che scadono da oggi fino al 30. Ecco, patenti ECQC, il certificato di qualificazione del conducente, che invece è proprio specifico del settore del trasporto. La CQC in realtà era già stata, c'è stato un provvedimento specifico del Ministro dei Trasporti, sì, che ne garantisce la proroga. Quindi da questo punto di vista siamo a posto. Mancano proprio relativamente a questo la copertura, diciamo, per quelli che sono i trasporti internazionali. Quindi per quanto riguarda CQC, revisioni, patente, in particolare per la DR, serve che il governo faccia una comunicazione, si attivi nei confronti della Commissione europea per garantire la circolazione dei nostri mezzi in ambito europeo, perché tutti i provvedimenti di cui abbiamo appena parlato riguardano l'ambito nazionale. Certo. E in questo senso credo che tocchi fare un'attività di tipo una pressione veloce nei confronti della Commissione europea. Ecco, lei parlava di trasporti internazionali, beh, anche su quel fronte il mondo dell'autotrasporto, ma forse l'intero mondo produttivo italiano, ha sofferto molto nei giorni scorsi. Basti pensare a quello che è successo al Brennero con i blocchi dell'Austria, ma anche quello che poi è successo in Slovenia o in Ungheria. Devo dare atto al nostro governo che si è mosso anche con tempi celeri nei confronti degli altri paesi per garantire fondamentalmente un principio, quello della libera circolazione almeno delle merci, e questo è quello che è stato seguito. Avete visto, c'è un provvedimento della Commissione europea che ribadisce questo principio, quindi ad oggi il trasporto merci è garantito nell'ambito dell'Unione europea ed è fondamentale perché, essendo un sistema economico integrato, ovviamente per poter continuare ad andare avanti, per garantire l'approvvigionamento dei supermercati, tutto quello che riguarda evidentemente il sistema economico e non solo, anche di beni essenziali, per poter andare avanti, è fondamentale che il trasporto delle merci, la libera circolazione sia garantita. Una necessità che è stata ribadita anche dalla stessa ministra De Micheli, che ha diffuso un messaggio di ringraziamento qualche giorno fa proprio agli operatori dei trasporti e della logistica. Ascoltiamolo. Questi pochissimi secondi per ringraziare i camionisti che in questo momento stanno lavorando e stanno anche faticando tanto per tutti i problemi che ci sono in giro per l'Italia, per ringraziare le operatrici e gli operatori della logistica italiana. Sono giornate molto complicate, noi stiamo lavorando per costruire un impianto di procedure per garantirvi di lavorare nella massima sicurezza, e nelle prossime ore le aziende per le quali lavorate potranno essere messe nelle condizioni di garantirvi questa sicurezza. Vi voglio ringraziare perché se voi non continuaste ad impegnarvi così, con questa dedizione al lavoro, il paese si fermerebbe completamente, le persone non potrebbero avere i beni di prima necessità, non potremmo rifornire gli ospedali. E quindi io credo che un ministro di una città colpita come Piacenza abbia il dovere di farvi avere, a ciascuna e a ciascuno di voi, la testimonianza della più grande gratitudine, della più affettuosa gratitudine, della speranza poi di poterci vedere presto, di poterci sorridere, di poterci abbracciare. Bene Manfron, e allora con questo messaggio della ministra De Micheli, che ha ribadito ancora una volta la centralità di questo ruolo dei trasporti, chiudiamo questo spazio dedicato al mondo dei trasporti e della logistica, ma un'ultima battuta riguarda il futuro. Quali sono le vostre aspettative sull'evoluzione di questo problema, ma soprattutto il settore dei trasporti riuscirà a far fronte in pieno a questa emergenza? Allora, come dicevo all'inizio, secondo me, guardate che non sto abusando della parola, ci sono stati dei comportamenti in alcuni casi addirittura eroici, c'è gente che sta sulla strada dalla mattina alla sera senza alcun tipo di, o meglio con un approccio, mettiamo, con un senso di responsabilità veramente, veramente non comune. E proprio la responsabilità vi volevo appellare, di tutti, noi siamo in questo momento nel settore della logistica vedendo che ci sono dei comportamenti, come dire, fatta salva la necessità di tutelare la salute dei lavoratori, ci sono delle manifestazioni, secondo me, incontrollate di alcuni sindacati autonomi che non aiutano in questo momento soprattutto il sistema a, come dire, a garantire quelli che poi sono anche servizi pubblici essenziali. Quindi attenzione, veramente è un appello alla responsabilità di tutti a comportarsi, certo, in maniera più, come dire, attenta e responsabile. Bene, con questo messaggio, con questo appello, chiudiamo anche questo spazio di oggi. L'appuntamento con Container torna, come al solito, sabato alle 13:15 circa. Un saluto e un buon viaggio a tutti da Massimo De Donato. In collaborazione con l'Albo Nazionale degli Autotrasporti.